Vuoi segnalare un problema al quartiere? Per segnalare problemi che riguardano la manutenzione di strade e marciapiedi, malfunzionamenti dell'illuminazione pubblica, la presenza di rifiuti o le cattive condizioni di parchi e giardini, puoi contattare gli uffici che se ne occupano del tuo quartiere, al telefono o per email. Trovi qui sotto i contatti.